got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi, solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti a Indovina chi viene a cena, il film del 67 che è la nostra scusa ufficiale per parlare di pregiudizi razziali, integrazione fra culture, identità, tutte cose che noi pensiamo si possano superare, come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Insomma, in cucina come nella società e nella vita i gusti cambiano, parliamo quindi di ricette per raccontare i nuovi italiani, magari nati all'estero ma da decenni in Italia, magari nati in Italia da genitori stranieri. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di contraffazione e pane al vapore con l'imprenditore cinese Wong e poi di primavera araba e couscous con il rapper italo-egiziano Amir. Indovinate chi viene a cena stasera a Radio 24. Benvenuta Hijaba Shego. Grazie. Grazie di essere con noi. Hijaba Shego è una scrittrice italiana di origini somale, è nata a Roma. Tra i suoi libri Pecore Nere, Oltre Babilonia, l'ultimo La mia casa è dove sono, edito nel 2010 da Rizzoli. Hijaba Shego, cosa ci cucini oggi? Allora, ho pensato a una tisana, perché io mi faccio tantissime tisane, soprattutto con l'inverno, sono molto molto utili, e poi una tisana che si chiama tanguisi, poi spiegherò bene come si fa, e il fegato alla veneziana, perché ha un... però con un, in realtà è un fegato alla somala, poi ho scoperto che quello che facciamo in Somalia si fa pure a Venezia, quindi è una ricetta che ci unisce. Ah, questa è una cucina fusion somalo-veneziana. Sì, perché in realtà la ricetta è uguale, e quando a Venezia ho assaggiato il fegato alla veneziana ho detto ma questo me lo faceva mia zia e mia madre a casa e mia zia in Somalia. Questo è veramente interessante, io poi sono veneta e lo amo molto, è un piatto forte. Abbastanza, perché era praticamente il piatto del venerdì, siccome la Somalia è un paese musulmano, il giorno di festa è il venerdì paradossalmente si mangia a colazione, cioè è super forte. Io che appunto venivo dall'Italia abituata alle merendine, che ne so, al cornetto, ai biscotti, al latte, eccetera, all'inizio è stato un po' uno shock, no? Perché ti davano questo fegato con le cipolle di prima mattina e tu rimanevi lì un po' sconvolto. Però poi in realtà quei gusti forti si sono mischiati ai gusti dolci italiani, perché io mi rendo conto adesso che insomma sono una donna adulta che il mio palato è molto agrodolce, si è abituato a tanti sapori diversi e li ha mischiati. Poi si mangia con un pane abbastanza speciale, che è una specie di crepe, che è in l'ingera, che c'è anche in Etiopia e in Eritrea, soltanto che l'ingera somala è un po' più piccolina, quindi la mattina io mi ricordo che quando, perché io sono nata a Roma però ho vissuto anche lì, e ho vissuto con mia zia, e praticamente c'era questa ingera dove si mettevano su del burro, della marmellata, e il venerdì però lo mangiavi con il fegato. Quindi è un gusto, un sapore che ti ricorda della tua infanzia. Sì, sì, assolutamente. Adesso mangio veramente poca carne, non amo molto la carne, però ti devo dire la verità che il fegato, siccome mi ricorda questo paese che io non vedo più da 24 anni e che spero di rivedere, perché adesso la Somalia sta in un periodo buono, in un periodo di transizione dalla guerra civile a una pace non ancora assoluta, ma sta succedendo una rivoluzione in Somalia, cioè abbiamo un vice ministro, il ministro degli esteri donna, che poi è venuta anche in visita in Italia, ho conosciuto, c'è costruzione, ci sono le ambasciate che stanno riaprendo dopo 22 anni, c'è collaborazione internazionale, c'è molta voglia di fare anche tra i somali, sia quelli che sono rimasti lì, sia quelli che appunto vivono fuori dalla Somalia, che sono emigrati, anzi che sono rifugiati in altri luoghi, no? E io penso che è un periodo molto positivo per questo paese, importante anche per il mondo, perché avere un paese finalmente dove il fondamentalismo islamico è stato cacciato, dove appunto la gente è ritornata a sperare nella pace, può essere soltanto una cosa positiva. Tu ti senti italiana o somala? Sei stata premiata anche con il premio Mondello per la letteratura italiana. Sì, sì, sì, io come dico, come ho detto anche nei racconti in cui ho scritto e anche spesso quando me lo chiedono, io mi sento 100% italiana e 100% somala, perché la bellezza di avere più mondi all'interno è proprio quello di riuscire a spaziare e a saltare dall'uno all'altro senza creare barriere, confini e diversi diciamo steccati, no? E io mi sono sempre sentita, infatti nel racconto che c'è in Pecore Nere, il salsicce, faccio un elenco di quando mi sento italiana e di quando mi sento somala, e chiaramente non è un racconto autobiografico, ma era più una metafora di una condizione che vivono molti figli di migranti. Cioè, il bello è che non è che dobbiamo scegliere di essere l'uno o l'altro, perché sarebbe annullare una parte di noi, invece sarebbe molto bello appunto riuscire a fonderle insieme, perché è una ricchezza, un doppio sguardo. Cioè, questo mi fa capire i miei connazionali somali e i miei connazionali italiani, insomma. Allora facciamo un salto culturale: Somalia, Italia e anche Canada. Yeah, believe it or not, what kept me alive is my dream. I'm a dreamer, but I ain't the only one. Got problems, but we love to have fun. This is our world, from here to your hood. We're alive, man, it's okay to feel good. I'm a dreamer, but I ain't the only one. Got problems, but we love to have fun. This is our world, from here to your hood. Life up now, it's okay to feel good. I got a friend named Flo, who got a friend named Blow, with a finger named Clap that'll leave you on the side like a Kangol hat. He ain't have no choice, he was born this way. These streets pull your number like a phone display, and you gotta be defensive with your life. You gotta be like Bush and take preemptive strikes, and the boys from the hood are always hard. La canzone che hai scelto è questa, di un rapper canadese somalo, è così? Sì, Kenan è come tantissimi artisti, un po' lo sento vicino, perché lui è vissuto in Somalia ed è andato piccolo in Canada e ha fuso nella sua musica musica somala e rap, insomma ha creato un suo linguaggio, a volte inserisce anche brani di interi in lingua somala nel rap, ed è insomma un ragazzo molto molto interessante. Tu parli somalo? Io parlo somalo, grazie a Dio, perché i miei genitori hanno fatto una cosa che dovrebbero fare tutti i genitori, diciamo, che hanno voglia che i figli diventano veramente bilingui. Cioè, mio padre mi parlava solo in italiano e mia madre mi parlava solo in somalo, così questa cosa mi ha molto aiutato, devo dire la verità, perché sapevo che dovevo comunque comunicare con entrambi i genitori in una lingua o in un'altra, senza, così questo non mi ha creato confusione. E devo dire che ci sono tantissimi gruppi musicali, ma tantissimi attori in Italia, spesso cosiddetti nuovi italiani. A me il termine non piace molto, perché io mi sento un po' vecchietta, visto che nuova non sono, però penso che io preferisco molto di più il termine afro-italiani o altri termini del genere. Però ecco, penso che questa possa essere la ricchezza, cioè anche una ricchezza artistica in cui tu puoi fondere veramente le culture di appartenenza, ed è quello che io ho tentato di fare nella scrittura. Infatti tu scrivi in italiano, tra l'altro leggevo che il somalo è nato come lingua scritta solo nel 73, fino ad allora i documenti di tutti i somali erano scritti in arabo e in italiano, perché noi abbiamo insomma siamo stati presenti molto tempo nel tuo paese, anche i tuoi genitori parlavano italiano? Sì, ma l'italiano era una lingua abbastanza diffusa fino agli anni 90, più o meno, e adesso tutti i legami con la guerra civile si sono persi. Il problema è chiaro, il legame era negativo, era un legame coloniale, però poi io penso che l'Italia, mentre i somali sono molto consci di questo legame coloniale, di tutto quello che ha significato di brutto e anche un po' di buono, perché qualcosina buona c'è pure anche stata, però il colonialismo è stato sangue, è stato sopraffazione, è stato essere subalterni a casa propria, e invece in Italia a me questa cosa mi sconvolge sempre molto, non si studia a scuola, le persone non sanno quali sono state le colonie italiane, invece basta chiedere a un inglese o un francese, te lo sa dire cosa la Francia ha colonizzato e cosa la Gran Bretagna ha colonizzato. In più c'è questa cattiva memoria in Italia che a volte spunta in maniera orrenda, come per esempio quello che è successo ad Affile, cioè abbiamo un monumento ad Affile, una città qui vicino a Roma, con i soldi dei contribuenti della regione è stato costruito un sacrario militare in onore di Rodolfo Graziani. Allora, Rodolfo Graziani era un criminale di guerra, ha gassato gli etiopi quando c'è stata la guerra dell'impero, quella voluta da Mussolini. E poi io, Graziani l'ho messo anche nel libro, perché quello è stato un po' un problema che ho avuto io nel diventare adulto. Cioè, nel diventare adulto ho scoperto che mio nonno era interprete di questo criminale di guerra, e un po' quello che succedeva a moltissime persone nella colonia, insomma, di essere subalterni e in qualche modo anche di lavorare per il fascismo, no? Certo, ti faccio sentire un sonoro che abbiamo trovato. Dopo aver recato il conforto della sua presenza ai degenti, la principessa è scesa nella capitale somala, dove i nostri soldati e la popolazione ne riservavano entusiastiche accoglienze. Precediamo l'augusta visitatrice lungo le belle strade asfaltate, adorne di palme e bordate da chiari edifici. Insomma, questo è chiaramente un sonoro dell'epoca, no? Sì, sì, quando Maria José è arrivata in Somalia. Sì, sì, esatto, brava. Tu dicevi, ho letto, che la formazione culturale di base in Somalia era già italiana, tuo padre, tua madre e i tuoi fratelli hanno fatto scuole italiane. Sì, sì, sì, sì, perché fino agli anni 70 le scuole erano italiane. E tuo padre è stato un balilla, è così? Sì, è stato un balilla, perché a parte proprio la storia coloniale, c'è stato un periodo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi quando l'Italia ha perso la colonia e le colonie, soprattutto quando l'Italia è diventata repubblicana, in cui le Nazioni Unite hanno dato il compito proprio all'Italia di traghettare la Somalia verso la democrazia, e questo è stato un periodo che si chiama AFIS, Amministrazione Fiduciaria Italiana, ed è durato 10 anni. È un periodo pieno anche di contraddizioni, perché se tu ci pensi è un po' strano che il popolo che ti ha colonizzato ti insegni la democrazia, e poi proprio nessuno ti può insegnare la democrazia, non si può esportare democrazia, l'abbiamo visto con l'Iraq e l'Afghanistan, no? Però ecco, è stato un periodo storico in cui si sono aumentati i legami tra Italia e Somalia, e mio padre mi diceva sempre, appunto, lui che poi ha fatto una carriera politica, è venuto a fare dei tirocini in Italia negli anni 50, e quando poi le mie sorelle più grandi o comunque le cugine più grandi mi parlano di quando andavano a scuola, loro ascoltavano Gianni Morandi in pieno Equatore. Peccato, non abbiamo preparato nessuna canzone di Gianni Morandi, ma ti facciamo sentire qualcos'altro. Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta do Curuzu. Questa è una canzone che tu hai scelto, anche questa è una canzone che non appartiene al tuo paese, e come mai ti piace? Vabbè, io adoro il Brasile, sono un amante del Brasile, poi poche persone lo sanno, ma io sono laureata in letteratura spagnola e ho studiato molto molto l'America Latina e anche soprattutto il Brasile, dove si parla portoghese. Sei laureata a Roma tu? Sono laureata a Roma e ho anche un dottorato di ricerca, però ecco, l'America Latina è sempre stata una passione. A un certo punto ho scoperto la MPB, la musica popolare brasileira, e mi sono innamorata. Questo mi ha aiutato anche a imparare il portoghese, cioè io non ho fatto corsi portoghese, ma ho imparato appunto guardando le telenovelas brasiliane e sentendo le canzoni. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Questa è una canzone di Nat King Cole. Ci racconti come mai questa canzone è così importante? E tu l'hai anche raccontato bene, ha un collegamento con tuo padre, no? Allora, la canzone è importante per due motivi. Uno, perché l'ho adorata nel film In the Mood for Love, e poi per mio padre, perché mio padre adorava Nat King Cole, e nel libro, nella mia casa dove sono, racconto quando appunto vanno a Sistina mio padre e i suoi amici e appunto hanno questi, sono lontani, non sono seduti in prima fila, però Nat King Cole, pur essendo miope, si rende conto appunto che ci sono dei fratelli neri in sala, forse vede delle macchioline, chissà, e comunque si avvicina a loro e gli dice: venite, venite, sedetevi in prima fila e vedete il concerto in prima fila. Quindi un grandissimo onore. Da quel momento per mio padre Roma, perché insomma Sistina è a Roma, è diventata la terra del possibile, cioè è sempre legato Roma a questo ricordo di Nat King Cole, a questa serata. I tuoi genitori sono venuti in Italia in seguito al colpo di stato di Siad Barre, no? Che ricordi ti hanno trasmesso del paese? Tu appunto mi raccontavi ci sei stata, è da tanti anni però che manchi. Che idea hai della Somalia di allora, come te la raccontavano, e della Somalia di oggi? Ci hai raccontato che è molto diversa ed è anche una speranza per l'Africa. Sì, la Somalia di oggi è sicuramente qualcosa che io non conosco, ma non conoscono nemmeno i miei cugini e i miei fratelli che vivono fuori dalla Somalia. È qualcosa di nuovo che si deve ricostruire, cioè un paese tutto totalmente nuovo. Quella di ieri era un paese in cui appunto la gente era molto solidale, era molto anche, aveva tante speranze, perché dopo il 1960 mi hanno raccontato i miei genitori l'alba dell'indipendenza africana e quindi l'alba dell'indipendenza somala, c'era molta speranza di poter veramente fare, creare un paese dove la cultura, l'amore, la solidarietà potesse essere al centro. Purtroppo la storia è andata diversamente, però io spero che, io proprio nei libri cerco appunto di raccontarla, quella vecchia Somalia e anche quella vecchia Italia, perché in un certo senso penso che Italia e Somalia, i miei due paesi, hanno passato 20 anni molto duri. Paradossalmente, per un motivo o per un altro, uno un po' politico, un altro un po' più legato alla guerra, però ecco, sono stati 20 anni in cui la crisi, una crisi morale, economica, sociale, ha investito i miei due paesi di origine. Per me in qualche modo sono stati 20 anni in cui dovevo comunque tenere la barra dritta anche sulla memoria, sui valori importanti che invece questi due paesi hanno, e questo mi devo dire che mi ha aiutato molto la scrittura, la riflessione. Infatti volevo proprio parlare del tuo lavoro. C'è da noi secondo te una scrittrice, uno scrittore paragonabile a Qureshi oppure a Zadie Smith? Cioè c'è una letteratura non di migrazione ma di persone che scrivono in italiano perché sono italiane ma hanno origini, radici da un'altra parte. No, siamo tanti, siamo tanti. Io penso ad Amara Lacusa di origine algerina, o anche a Cristina Lifara, o a veramente tanti. Però il problema c'è un'attenzione per questa letteratura. Questo è il problema, infatti. Il problema grosso è che molto spesso non c'è volontà di fare scouting o di trovare nuove voci o di dare importanza alle voci che già ci sono. Ci sono alcune persone che sono emerse, che hanno scritto dei romanzi bellissimi. Altre volte gli stessi romanzi bellissimi dopo 2-3 mesi diventano irreperibili, no? Perché non sei il grande nome, non viene invitato nelle grosse trasmissioni, eccetera. Io però veramente ho molta fiducia che questa letteratura italiana in qualche modo nuova si farà le ossa e riuscirà ad arrivare, perché vedo molta attenzione soprattutto dall'estero. A me la cosa che mi colpisce sempre tanto è che lo vedo su di me, che vengo contattata continuamente da persone dagli Stati Uniti, dall'Australia, vengono fatte tesi su di noi, tesi di dottorato, tesi di laurea, conferenze, libri, ed è veramente molto buffo. Cioè negli Stati Uniti c'è un interesse verso questa letteratura che è pazzesco, soprattutto nei dipartimenti italianistica, tanto che io a ottobre andrò a New York a fare 2 seminari alla NYU e sono molto contenta di questo. Immagino. Senti, a me è piaciuto molto il tuo racconto Salsicce, mi ha colpito molto, no? È divertente, è interessante, anche questo rapporto con il cibo, visto che noi parliamo anche di cibo, no? E che cosa, raccontalo un po' ai nostri ascoltatori di cosa parli. Allora sì, Salsicce ha avuto molta fortuna, tanto che è stato anche citato dal Presidente della Repubblica in un suo discorso, quindi è un evergreen, il mio evergreen in un certo senso, e parla di una musulmana sunnita, che non sono io perché è una metafora di una condizione, che per dimostrare agli italiani di essere italiana come loro decide di compiere una cosa che per un musulmano è un peccato, cioè mangiare delle salsicce, cioè mangiare carne di maiale, e va a comprarsi queste salsicce e poi se le porta a casa, a parte che non ha il coraggio di mangiarle, però proprio non sa come si cucinano, e da lì comincia tutta una sorta di riflessione sull'identità e sul dover scegliere una parte invece che un'altra. E poi è chiaro, la protagonista, che sono, posso essere io come può essere una qualsiasi persona di origine diversa, però che è italiana, sì. Decide di non mangiarle queste salsicce e decide insomma di essere tutte e due le cose, e nel caso della protagonista somala e italiana. Certo, tu stai lavorando a qualche libro adesso, ci puoi raccontare che cosa hai in serbo, insomma? Allora no, io sto lavorando sia a un libro, e lo dico per scaramanzia perché sono cambio sempre idea, cambio sempre trama, insomma sto lavorando. Poi in realtà sto anche lavorando a un progetto che è oltre il libro, oltre questo libro che sto scrivendo, che è più un progetto di storia orale. Io sono una storica orale e sto lavorando appunto sull'identità, ed è un lavoro che spero che quando è un work in progress, spero che per giugno avrò già una bella fetta di lavoro fatta, e vorrei presentarlo a Scaglioni e presentarlo anche a New York, e sperando insomma di poterlo portare nelle scuole, perché io sto indagando proprio su questa identità complessa dei nuovi italiani. L'identità passa anche attraverso il cibo, chiaramente, nei tuoi libri si vede. Sì. Assolutamente sì, ma anche alla fascinazione del cibo, no? Io ultimamente sto scoprendo delle cose che prima non mangiavo, e sto scoprendo invece altre, a proposito della tisana di cui vi volevo parlare, altre che sono sempre state nella mia tradizione, però non avevo mai in qualche modo elaborato come mie cose, no? E, per esempio, la tisana che io mi preparo spesso, questa fatta di cardamomo, due proprio cardamomo, cannella, chiodi di garofano, li metto nell'acqua fredda, li faccio bollire, poi li lascio riposare 2 minuti e ci aggiungo dello zenzero fresco. E questa tisana qui riscalda molto e devo dire che nelle notti d'inverno è molto molto utile. È una tisana somala? È una tisana, oltre che somala, della città di mio padre, cioè a Brava, si chiama Tanguisi, cioè si usa molto, però poi io l'ho ritrovata in culture assolutamente diverse dalla nostra, l'ho ritrovata in Giappone persino, capisci? E quindi è come alcuni cibi, tipo la samosa indiana, no? La samosa indiana viaggia, va a finire in Medio Oriente, diventa dolce, invece di metterci le patate dentro questo fagottino, ci mette in Medio Oriente ci mettono il miele, in Somalia ci mettono la carne macinata con le verdure o il pesce, quindi la stessa idea, no? Questa del fagottino gira per mari e per monti. Ci sono episodi in cui ti sei sentita vittima di un pregiudizio? Vado a votare e a volte è un problema, per esempio mi ricordo una volta che siamo andati io e mia madre porta il velo e il signore, c'era un signore appunto un poliziotto che non era convinto che mia madre fosse italiana e diceva: lei col permesso di soggiorno è qui che ci fa. Io ho detto: scusi, ma se uno ha il permesso di soggiorno non è italiano non veniva a votare, siamo italiani. Queste cose mi danno un po' fastidio, no? Perché io spero che l'Italia del futuro, ma anche l'Italia del presente, diventi un'Italia in cui veramente chi lavora in uffici pubblici abbia una formazione e che non succeda più che una persona vada a votare e gli dicono: no, lei è una clandestina, cioè non va bene. Certo, anche perché insomma noi parliamo con affetto di questo bellissimo film del 67, ma caspita, erano gli anni 60, siamo nel 2013. Allora, e prima di salutarti riepiloghiamo le ricette di oggi. Fegato alla veneziana. Fegato di vitello 500 grammi, 2 cipolle bianche, olio d'oliva mezzo bicchiere, burro 30 grammi, 2 cucchiai di aceto, sale e pepe quanto basta. Tagliate la cipolla a fettine sottili e fatele appassire a fuoco lento in una padella con olio e burro, mescolando ogni tanto per evitare che si attacchino al fondo. Dopo circa 10 minuti, quando le cipolle saranno appassite, aggiungete l'aceto di vino e il fegato a fettine, al quale avrete tolto la pellicina che lo riveste, e fate cuocere il tutto per non più di 5 minuti a fiamma alta. Aggiustate di sale, pepate e togliete il fegato dal fuoco. Quindi servitolo ancora caldo, con spicchi di limone e con il sughetto della cipolla. Si accompagna spesso con polentina bianca. Per Yom Ufo. Allora, la puntata termina qui. Ringrazio la nostra ospite Hijaba Shego, prima donna ospite di Indovina chi viene a cena. Grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. E buona tisana. Sì, buona tisana, buon appetito. Ricordate che i gusti cambiano. Mi trovate anche su Twitter Valfurla e poi trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti. You've got to give a little. That's the glory of love.